cercando un mondo che non c'è. Un giorno tu hai incontrato me. Io non credevo fossi tu. Eppure è vero, sono qui. In fondo all'anima, così. Il nome mio tu scriverai. Io sono quello che tu vuoi. Ancora un attimo tra noi. Mentre tu guardi gli occhi miei, accarezzandoti così, hai detto al cuore che mi vuoi. Un'altra volta solo noi. Sentirmi solo tua. Io sono quello che tu vuoi. Tu sei bellissima. Sei il mio segreto in fondo all'anima. E se mi perdo e non ti vedo, non ha più senso questo cielo. Adesso ascoltami, mi guardo un attimo nell'anima. Vedrai una donna che ti amerà, di un amore oltre al limite. Lasciarsi andare tra di noi. Perdermi così insieme a te, che mi dici non lasciarmi mai. Non voglio perderti. Sei il mio segreto in fondo all'anima. Mi perdo e non ti vedo, non ha più senso questo cielo. Ma più di così nell'anima, per una sensazione unica. Se io mi perdo e non ti vedo, questo cielo. E se mi perdo e non ti vedo, non ha più senso questo cielo. E se mi perdo e non ti vedo. Io perderò anche il mio cielo.